poesie. E su te qualcuno dirà le peggiori bugie, ti insulterà, ti maledirà. Non sarà peggiore di me, né migliore di me. Soffrirà soltanto di te. Se tu restassi di più, forse non.